Nel Così fan tutte di Mozart, come ognuno sa, Ferrando e Guglielmo, giovani ufficiali napoletani, allo scopo di mettere alla prova ciascuno la fedeltà della fidanzata dell'altro, decidono di travestirsi da nobili albanesi, il che fa vagamente pensare che l'Albania per Mozart, l'abate da Ponte e il loro pubblico non fossero esattamente quello che è per noi, ma non è questo il punto. Il punto è che per conservare il necessario incognito, i due, che secondo i dettami della moda del tempo sono rigorosamente glabri, si applicano sotto il naso dei suntuosi baffi finti e, al riparo di tanto usbergo, portano felicemente a termine la delicata missione. Ecco, non so se l'avete notato, ma nella versione stradiviana dell'opera in programma in questi giorni al Nuovo Piccolo Teatro, una messa in scena che è spinto da un antico amore per Mozart e da molta curiosità sul Nuovo Piccolo Teatro, sono andato a vedere l'altro giorno, e succede tutto il contrario. I due bravi giovani, che di loro risulterebbero dotati di un paio di baffetti neri alla D'Alema, che stonano assai con le parrucche settecentesche incipriate, per travestirsi se li tolgono, recitando per tutta la durata della loro simulazione a viso scoperto. La cosa crea qualche complicazione, perché a fine spettacolo entrambi dovrebbero ricomparire debitamente baffuti, e d'altronde su quei mustacchi nel testo si scherza tante di quelle volte che per restare fedeli all'innovazione bisogna manipolare il libretto, e non solo quello, e anche con qualche pesantezza. Per esempio, bisogna sostituire nella terza scena del primo atto un'aria del baritono con un'altra che Mozart aveva tagliato, e se l'aveva tagliata avrà avuto le sue buone ragioni. Ma insomma, chi non conosce l'opera probabilmente non se ne accorge. Chi la conosce invece sì, e almeno nel mio caso, basta questo per rovinargli la serata, impedirgli di godersi la musica e farlo tornare a casa di pessimo umore. Mi direte che non è il caso, che è una sciocchezza, che è un particolare da niente, che è una bizzarria registica come tante. Chi in queste settimane ha avuto occasione di metter piede al Nuovo Piccolo Teatro e potrà anche aggiungere che di motivi per arrabbiarsi a quel Così fan tutte ce n'erano ben altri. Sì, è vero. In effetti la serata a cui ho partecipato io era funestata da un direttore d'orchestra piuttosto incapace, da un'orchestra così così con dei legni che in certi passaggi coprivano la voce dei cantanti, e da dei cantanti che, ancorché volonterosi, ogni tanto facevano venire un batticuore tremendo per paura che sulle vette della melodia mozardiana non riuscissero proprio ad arrampicarsi. Si aggiunga che il tenore e il baritono evidentemente erano convinti di essere stati ingaggiati per una farsa da spettacolo, che il basso sfoggiava una dizione insopportabile e nel secondo atto era inesorabilmente sfiatato, e che la regia, che avesse scritto nel programma di sala un certo Gabriele Albertini, che deve essere un nuovo critico teatrale di cui non avevo mai sentito parlare, e la regia era evidentemente appena abbozzata e nel complesso approssimativa. Aggiungerò, se mi consentite di scendere su un terreno meno spirituale, che né io né buona parte del pubblico siamo riusciti a capire come mai in un edificio teatrale su cui si è profuso un centinaio di miliardi si sia deciso di risparmiare proprio sugli impianti igienici. A disposizione del migliaio di spettatori paganti c'erano, salvo errore, 12 toilette, il che comportava, per chi avesse la necessità di servirsene, la necessità di passare l'intero intervallo e almeno 2 o 3 arie del secondo atto in coda. Ma pazienza, questi sono inconvenienti inevitabili o passeggeri. Il motivo per cui la regia era incompiuta lo sappiamo tutti, e ovviamente nessuno può farci niente. Le toilette potranno essere aumentate di numero, pagando a chi di dovere un adeguato numero di miliardi aggiuntivi. Il maestro, gli orchestrali, i cantanti erano tutti molto giovani, hanno tutto il tempo per imparare. Quando avranno imparato sarò lietissimo di tornare a sentirli, perché qualche buona intuizione nonostante tutto ce l'avevano, il problema era di svilupparla. Ma quella storia dei baffi, no. Quella, chiunque l'abbia escogitata, il regista originario, i registi subentrati, il costumista, chiunque altro, resta stupida, immotivata e insanabile, come mi permetterò di illustrare brevemente. Vedete, il punto chiave che mi ha fatto innervosire è proprio quell'immotivato, quella inutilità. Non c'era un motivo al mondo per turbare la verosimiglianza teatrale apportando quel cambiamento. E non ditemi che nel Così fan tutte di verosimile c'è ben poco. La storia in sé è inverosimile, ma il libretto no, perché sa sfruttare al meglio le convenzioni che il suo pubblico è pronto ad accettare, e tra le quali c'è quella per cui per diventare riconoscibile, cosa che nella vita forse è difficile, ma nel teatro comico è possibilissimo, basta un paio di baffi. Io non credo alla necessità di considerare l'opera teatrale un feticcio intangibile, ma al concetto che tutte le libertà che regista e interpreti si prendono devono essere motivate da qualcosa, devono proporsi un dato fine, un dato effetto, ebbene sì, a quello sono affezionato. Se ho per le mani un testo di Mozart, che è Mozart, mica paglia, per modificarlo dovrò avere o ostentare qualche motivo serio. Se no, l'unica cosa che dimostrerò è il mio scarso rispetto per l'opera altrui, che per chi si occupa di opere altrui è un difetto abbastanza grave. Se poi, come credo, l'idea era quella di far capire allo spettabile pubblico e all'inquieta guarnigione che, grazie alla misteriosa ambiguità che caratterizza l'opera del divino Folfango, i due seduttori, pur agendo travestiti, continuavano ad essere se stessi, e le loro finte proteste d'amore in un certo qual senso erano autenticissime, beh, allora è ancora peggio. Perché quello è il messaggio dell'opera. È quello che traspare da tutto il suo insieme, da tutta la sua struttura, e supporre che lo spettatore non possa capirlo da sé significa considerarlo un povero deficiente a cui bisogna spiegare le cose, dirgli quando bisogna ridere, quando bisogna piangere, quando bisogna applaudire. È la stessa logica per cui gli aforismi latini di Don Alfonso erano accuratamente tradotti in italiano, senza riguardo per la rima e per il metro, nella presunzione che nessuno sarebbe riuscito a capire che finem lauda vuol dire aspettate il finale. Al popolo bue le cose è meglio spiegarle, ma forse operazioni del genere sarebbe meglio lasciarle fare in televisione. A proposito, nel programma di sala c'è un breve brano di un altro critico illustre, Walter Veltroni. Il ministro dei beni culturali augura Così fan tutte tutto il successo che merita. Se il buon Walter, oltre che il cinema, frequentasse ogni tanto i teatri, forse ricorderebbe un famoso passaggio dell'Amleto di Shakespeare. Quello in cui Polonio, parlando agli attori della compagnia, dice: li tratterò secondo il loro merito. E ricordate cosa gli risponde Amleto? Gli risponde: amico, no, trattali meglio, molto meglio, se dobbiamo trattare ciascuno come si merita. Chi sfuggirà alle frustate?